detto Natalino. Cassano, non c'è più luce, non so perché. C'era niente oggi, c'era col venticello l'occhio. Ah, io mi sono fumato qualche bicchiere di birra in più. Non lo so questo. Non lo puoi sapere io. Tu lo puoi sapere io, no? Beh. Cava, cava. Vabbò, vabbò, vabbò. Ma sì, no, non venne. Lui, casino veramente. Poi qua c'era il figlio di Mario. Guarda, stavo facendo male, stavo attrappando. L'ho sentito. Sono sul controllo col microfono, Mario. Strapperà sempre. Oh, vabbè. Via. Thank you.

Quanto fai ti ha attaccato? Il percussore è attaccato col cazzo. Capito. Cosa ha attaccato il percussore? Percussore? Processore? Processore. Gamma. Che fucile devo andare? Vabbè. Ma poi quando è sparando, dove vuole andare? Sì, sì. Come on, dire? Ma sono orientato, non ce la faccio più. Ieri notte? Sì. No, che ora, che sono un giorno che non mi sono occupato. Cazzo. Io mi sono assentato dopo, no? Sono tornato, non ce la faccio più. Su 41? No. Su 41 siete andati dopo, al 10 eravamo, siete ricordi, sai, invece c'era un... Tonino. Ah, che risposta che la notte del 41 è la risposta che tu poi hai detto che andavo a vedere se c'era qualche cosa, ma siccome non ti sei sentito più. Boh, questo me lo metto, ma saldo, è innamorato brutto, va. Ah, siccome ti dico che mi conosciamo, ma non si vuole dormito ieri. No. Sono addormentato di volta alle 3. Vi saluto. Buona serata, buon tutto, Yogi, dai. Avanti Luca per il saluto a Yogi. Yogi, dove stanno a bussare? Negativo, sto provando una pizzeria nuova. Ah, è buttissima, Dendi. Sì, no, di brutto. Va bene, ciao, buona serata, alla prossima. Buon divertimento. Sentiamoci. Ciao Yogi. Ciao. Oh. Saluto da Bubu! Adesso gli rubo il cestino della madretta! Chiava cava! Allora cava cava, aiuto! Cappa! Aiuto, cava cava, aiuto, cava! E cosa capo? E così cava cava! Cava cava! Aumentare allora. E K di Bodessina 4. Poteva aumentare, ma bene o male qui in zona già piccolino facciamo sentire, dai. Cava, come dice qualcuno. Copo. Caparongelo. E a me mi ascoltavi? Cappa. Ti ascoltavo? Non mi sentivi, perché con un fazzi da qui a lì, da lì a lì, non parli via. Dovevo mandare col tiralastico le parole, Falchetto. Ma Luca ti sentiva? Cappa di così, ma Luca è qui dietro l'angolo, si può dire. Chiaro di Roci. Bella, ti ascoltano quando metti la portatile? Penso di sì. E Gianni? Cappa. E io vabbè ce l'hai di zona. Cappa Roci. Proprio Cappa. E allora Giuseppe, che ci racconti di bello? Sì, qualche. Che ti racconto di bello, che oggi è sabato, non si è trabaccato e niente, dai, cazzoneggiando, gigionando, come si dice dalle mie parti, un po' qui, un po' là oggi, dai, cercando di passare la giornata il meglio possibile. Cappa, sei andato poi per quella questione che ti avevo detto? Cappa di positivo, però è chiuso sabato. Ah, ecco, allora ci devo andare in settimana, come cavolo fai? Cappa, è quello che ho detto a quelli che c'erano giù stamattina. Ho detto, purtroppo qui è solo roba per ricchi, per gente che lavora tutta la settimana, cioè, non ci si può arrivare lì. A meno che non chiedi un permesso non retribuito oppure prendi mezza giornata di ferie, però io dico, ma il sabato quelle cose lì non sono aperte, ma perché non devono lavorare loro, scusa? Infatti se sono meno difficili da aprire. Cappa. E allora non vedo motivo perché non devono lavorare. Ripetiamo le cose che gli ho detto stamattina, dai. Non lo so, poi ti prendono anche per una persona, dice, ma lei sa, è quello che non si accontenta, ma gli uffici il sabato, ma gli uffici quello. E tu già lavorate 3 ore alla settimana, e più il sabato, che bene o male la gente è libera, e l'ufficio lo trova chiuso naturalmente, dopo che paghi anche, no? Mi hai capito, Anto? Ti trovi anche gli uffici chiusi. Mi pare che la voglia di lavorare è poco, eh. È poco la voglia di lavorare. E infatti, già si può assomigliare al nostro di lavoro, che ne abbia voglia o no, Anto, bisogna andare e zappare a basciare un capo il cambotti pure. È vero. Purtroppo così, tizio se ne appunti, lo prendi sempre in camicia, cravatta, come te ne aggiungo io, e se ne appunti. E cappa di positivo, e prendono una volta e mezzo lo stipendio che prendo io. È solo quello che mi dà un attimino di fastidio, perché anch'io quando sono andato a depositare tutta la documentazione erano in due, tutti e due a mano in tasca, tranquilli, e se c'è caldo hanno riscaldamento, se c'è caldo hanno il condizionamento, volevo dire, no? E se c'è freddo si accendono il riscaldamento, e cosa vuoi di più dalla vita? E come si fa a morire lì dentro? Ma me lo sai spiegare? Cazzo, quando sei campato e tenuto da quelli che ti pagano. Proprio vero, la vita c'è chi ha troppo, caro Giuseppe, e c'è chi ha nulla e se ne devi zappare per averne qualcosa giusto per mangiare. Perché tanto ormai noi, parlo di noi operai, poi magari io senza pesa per nessuno, io parlo per me, e oggi si va a lavorare per sopravvivere, non per campare. E infatti, oggi come oggi è per sopravvivere, quando ce n'è. E confermo al 100 quello che dici tu, qualche, quando ce n'è, quando ce n'è, perché ti ripeto, noi i bene o male sappiamo e quando ce ne danno ne prendiamo. Questi che ne facciano o ne facciano, tanto già c'è lo Stato siamo noi, no, contribuenti, e allora che cosa vogliamo di più? Su, vai così che va bene. Per carità, come per esempio oggi la partita della Roma con l'Inter, partita rubata al 2000%, perché un arbitro così l'avrebbe ripreso e buttato dentro la mondezza. Kappa, non l'ho vista, Anto, ma dimmi pure tranquillamente un tuo parere. Il mio parere è che l'Inter ha giocato, è stata anche sfortunata, ha preso per la pampinina nel primo gol da parte del portiere dell'Inter. L'Inter ha fatto una grandissima partita. Quest'arbitro era fischiato facile a morire gli interisti, ma i romanisti neanche per le palle. Uno solo ne ha munito, boh. Invece gli interisti ne sono due o tre ne ha munito. Kappa, ma anche lì nel calcio la stanno facendo sporca e niente, c'è molta gente che sto Maurigno o Murigno o come lo vogliamo chiamare sta sulla punta del naso a un po' di gente e l'Inter da quando è iniziato il campionato è sempre in vetta alla classifica, bim bum bam, arriva magari l'arbitro che tifa un attimino più Juve o più Milan o più chi cavolo vogliono loro e giustamente qualche la partita te la compromettono in 4-4-8. Come è stata quella di stasera, compromessa. Tutto qua, vabbè, buona sfortuna perché due traverse, un palo, gol mangiati, e va bene, è stata un po' sfortunata, diciamo. Però la parte più sfortunata è stato l'arbitro che ce l'aveva sempre contro l'Inter, mai contro la Roma, purtroppo è stato pagato con la bustarella, come si usa dire, e ha fatto il suo gioco come guardalinea lo stesso. D'altronde stava giocando Milano contro la capitale. Infatti. Purtroppo funziona così. E bene il caso pure l'ho fatto, c'era il Pierone nello stadio a Roma. Me lo posso immaginare, Antonio. Posso immaginarmi cosa tutto c'era. Cosa tutto è incassato, porca miseria. Una fetta ne avrei voluto di quello che ha incassato l'Olimpico. Ah, ti saresti messo a posto almeno o meno fino alla vecchiaia, Cavagava. E così si conferma l'amico qualche. Così si conferma alla grande. Bravo. Vabbè, il mondo gira, il mondo è fatto a scale, c'è chi scende, c'è chi sale. C'è chi sale, c'è chi scende e c'è chi la prende. Kappa, e noi facciamo cic e ciac. guarda, meglio non pensarci a quelle cose, mio Antonio. Meglio non pensarci a quelle cose. Aspetta un attimino che c'ho mia moglie che mi sta perseguitando anche dentro casa. Aspetta un attimino, Antonio, che mi sta chiamando. Kappa, fai tranquillo, Giuseppe, non ci sono problemi. E chi è che sta battendo? Hai sentito un doppio bip? Avanti il doppio bip. Ma solo noi due siamo arrivati qualche. A quanto pare sì. A quanto pare c'era Pierpaolo. Ha ricevuto un messaggio, non è più rientrato. C'era Luca. Stava sgranocchiando e non rientrato. E siamo io e tu. Ma vabbè, tutto. Cava, almeno prima si diceva. Siamo rimasti in tre, io, tu e Trappadè. Cava, cava. Su, su, su. Dai che non è successo niente. Su, su che andiamo, ragazzi. Tutti zitti stasera, mi. Tutti quanti con le orecchie pelose, mi. Anto. E tu pensi che noi siamo soli qui? Davvero. Qua il gatto ci trova. Dimmi una cosa, con questo apparecchietto come ti arrivo nelle tue coordinate? 9 più 20 radio 5 a bomba. K di positivo, me. Io con l'apparecchietto mio come arrivo? 9 più 25, ne, radio Kimbe. Va bene, Meda. K di positivo, su che si rulla, cerchiamo propagazioni, cercasi propagazioni anche usate, ne entrate. Vendo compro il cambio. Abbiamo le melanzane, le sardine, i polpi, i zirri, i calamari, su, tutto apparato, eh? Attenzione signori, è arrivato l'arrotino! Cavagalo! Oh, io ci ho tentato, magari qualche signora che le in modulazione, se ha le forbici che non tagliano più, possiamo darci un taglio. Una filatina si dice, non taglio, una filatina. Una sfilatina. Ma è cicchite in circolazione. Su, su. Oggi è proprio mortuorio, oggi che è sabato, che la gente si deve riposare, e cosa non entra nessuno? Ma. Oh, a meno che non stiano pensando col pensamento che hanno che devono spostare stanotte di un'ora le lancette dell'orologio avanti, forse per quello. Ehi, cava cava, guarda che c'è un bel programma in televisore, mia, canale 5. Ogni tanto sto scendo e me lo sto guardando, lo show dei record. E K, sai che è morto quello, l'uomo più piccolo del mondo? E K, ho sentito quando è iniziata la trasmissione, poverino, e quelle, come si chiamava, quelle cicitino, e infatti è dedicata a lui la trasmissione di stasera, poverino. K. Mi dispiace perché era serattolo, era. Purtroppo. Che ci volevamo fare? Che ci volevamo? E poi oggi mi stavo guardando la televisione, mi hanno fatto vedere in Cina c'è un luogo dove sono tutti i nanetti. Tutti, tutti i nanetti. Cava, cava, cava. Presidente, non so, di quella sezione lì, ha fatto costruire proprio il paese. Cioè le case per i nanetti in quella frazione lì, e possono entrare solo i nanetti di 1, aspetta, ho detto 1,20, massimo 1,30, non di più. Cappa di positivo, Ivo. Avere un'altezza così è proprio essere piccoletti. Gli hanno fatto vedere, è curioso, ma la gente è anche sposata, le case di miniatura, che te la fai cosa dove? Ma non puoi dire che ci puoi entrare a rubare lì dentro. Io dentro, una mano dove entrare, con cui non si entrano. Su che si urla, ragazzi. Ma di noi, raio Sassari, svegliatevi! Sulla frequenza della stazione Antonio e la stazione Giuseppe, svegliatevi! Cava cava, stazione Papatango, sulla senche che ve fa chiamata ne. Ma non ho sentito più a Capri 2, ha fatto l'entrata alle Leone e ci dà un mazzone Capri 2, come mai? Ehi! Hey. Hey. perché non uscivo, come dicono a Castello, non uscivo perché ha detto rientro, faccio bim bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum e nulla. Oppure è entrata una persona oggi e mi ha detto che oggi ne conosce un parente della sua ragazza, non so, nel cognato che forse, e dice che gli ha promesso che gli regalava, siccome si sta distrando della stazione, per cause non so che cosa, e mi ha detto che doveva regalare l'antenna più l'apparato. E io furbamente così, togli me lo spizzo e ho detto, ma questo tipo che conosci tu di Usine, dove pensa a poco, non mi dire la via perché non lo voglio sapere. E lui mi fa, vicino al campo sportivo, non è che io sto pensando fossi lui, no? E chi lo può dire quello? Io ti dico la verità, non so manco dove stia, se devo essere sincero. So che modula da Muros, però cosa dirti? Altro non posso dire, perché se no ti direi una bugia. Kappa. Poi io così di stuzia ho detto, ma mi puoi descrivere con i minimi dettagli? Ho detto, ma più o meno così, grosso, alto, magro? E lui mi fa, no, è ben piazzato, un tipo molto ben piazzato, di una certa età. E lì me la sono un po' puzzato, ho detto, ma no, a scommetti che non sarà proprio lui, punto di domanda. Kappa, può anche essere, se no Gianni Capri 2 si era fatto sentire, e se mi sente venga pure avanti, Kappa, però vedi, coincidono le cose, perché lui mi ha descritto la persona, che abita a Cipresi del campo sportivo, un po' di banghere, e sto immaginando che sia lui, immaginando solo, non vorrei che lo facesse, perché mi dispiacerebbe, perché è una persona abbastanza nobile, tranquilla, educata, e mi dispiacerebbe se non entrasse più, la verità si dica. Ma se l'altra volta ha detto che addirittura doveva tirare sull'antenna? No, addirittura la moglie gli stava comprando l'antenna nuova, addirittura, pensa un po'. E allora qui bisogna che ci si metta d'accordo. Grava. Ma veda lui, ognuno sa dei suoi panni. Kappa di positivo, ognuno sa di casa sua. Come si usa dire, ognuno si lava i panni di casa sua. E confermo al 100. Kappa di Roggero, siamo io e te. Siamo rimasti in due. Eia. Ma che non è troppo più tardi, e chi lo sa? Ma, tutti, ieri c'era di tutto e di più. Tutto e di più, credimi, stasera... Oh, stasera che non ho rumore non c'è nessuno. Però che sfiga. Non stavo per chiedermi, ma non è rumore. Cava. Avanti chi si stava sovramodulando sulla senche KK. Avanti sul 5. Avanti sul 5 chi vuole entrare KK. Niente, come stavi parlando tu ti hanno non sovramodulato, ma avete parlato assieme, ma adesso non vuole più entrare. Un salutone a tutti ragazzi. E chi è? Antonello, sono, ciao. Antonello chi? Socio dell'Avida. Salutoni Antonello, ben sentito in compagnia di Giuseppe Tornado. Avanti Giuseppe per il suocero di Davide. Kappa di positivo, ben sentito e ben trovato Antonello, qua sul 5, ma siamo in tre veramente? 5 un mortorio. Cava, cava. Attenzione, attenzione sul 5, stazione Papatango che fa chiamata. K di positivo. No, non tutti assieme che vi state sovramodulando, uno alla volta. Cava, cava. No Giuseppe, bisogna fare un po' di spazio perché si stanno tutti sovraccavallando. Cappa, lasciamo 10 minuti di bianco tra una chiamata e l'altra, Antonio. Sì, se no si accavallano, è pericoloso, Cappa, cappa di positivo, e provi di stazione Sierra Sierra se riesci a beccare qualcuno sulla Sen e avanti. Carissimi! Oh, visto che l'abbiamo beccato! Carissimo! Carissimo Falchetto! Mi direi la sera, brutto Morello! Sto rientrando a casa! E dormiri, mascalzone! Ero con una signorina, ero! Va bene, va bene. Allora se così va bene. In compagnia di Giuseppe Tornado. Avanti Giuseppe Tornado per Natalino. Bonsoir, mon ami. Bonsoir, mi hai sentito sulla Senche. Cappa di positivo. Avevamo anche l'amico qui in modulazione sulla Senche. Il suocero del buon Davide, avanti per Natalino. Cappa, ben sentiti tutti, dai. Natalino Alfa 1, canale 5, parente mobile, qua. Buonasera. Ciao, amico, Natalino, hai copiato? Negativo, chi era? Il suocero del figliolo di Mario Manser. Cappa, no, non l'ho ascoltato, capito. Cappa, vieni avanti per i saluti per Natalino, il suocero di Davide. Massino, Massino ti sento. E poi io sono in macchina, per quello. Movimento, movimento. Via. Attenzione, attenzione, Alfa 1 sulla Senche. K di positivo, stazione Papatango che fa chiamata. Cala di Roger. Dimmi, dimmi, Giuseppe. Come ne arrivo in quelle coordinate in Mattemobile? Fondo schiena, sono vicino a te. Via Bono. Mazzolina, se la riprendo allora Mastro Falchetto, anzi stazione Sierra Sierra, se la riprenda. Cappa che positivo, dai. Cappa, Rogero, positivo al 101%, tutta la stazione qua precaria, Non so se mi colpi lì in quelle coordinate l'amico Natalino, Cappa, ti ascolto, oggi non ce n'è di turbo, Giuseppe. Negativo, negativo Natalì. Sono da stamattina che lo sto inseguendo in tutto e per tutto, ma mi pare che questo disturbo è più furbo di me. E capo, se dovesse riapparire fai quello che hai detto di fare, già controllano. Ma di positivo, confermo al 100, confermo al 100. Già ero in postazione stamattina, però l'ufficio era chiuso. Perché può essere anche uno di quei punti ripetitori, Roberto, mi aveva detto, c'era uno strumento lì, mi aveva detto che glielo lasciava quello lì, cioè non è che non glielo ha lasciato, eppure lunedì vado in officina e vediamo un po'. Cappa di positivo, Natalino, sarebbe cosa per me gradita e non dimenticabile da parte mia se tu facessi questa, perché tanto oramai è diventata opera di carità, perché con quello strumento lì si riesce a caparne i piedi in 4-4 ore. E perché di un amico suo, non è suo, lo affitterà. È un giocattolo che costa 6.000 euro. Ma ha detto che glielo lasciamo, io l'ho visto lì in ufficio. Adesso lunedì vado e vediamo un po' se è disponibile lui a venire con me e così almeno cerchiamo la situazione. E K Natali, quello ti dice vita, miracoli, ora, minuti, secondi e anche il buco della serratura. No, ti dice tutto, ti dice come segnale, come non è, se sta mollando spurie, tutto ti dice. K, figurati tu. Guarda, io ormai ce l'ho, siamo prossimi al mese che ho questo, questo segnalaccio qui. Comunque, niente, Natali, vediamo un pochino, se fanno questo farà di bene, io più che essere riconoscente non posso fare. E poi ne parlo anche con un'altra persona, vediamo un po', perché no, non è possibile. Io l'ho sentito alla registrazione di quell'attoria lì, e però sapevo cosa era, ma non mi ricordo, guarda. Natali positivo. Natali, un secondo solo che è entrata qui Veronica, sta andando a fare la nanna e niente, vi dà la buonanotte. Un secondo, No, una sciocca. Ti dia Natalino, tu sì che sei una sciocca. Ma buonanotte anche a te. Buonanotte Veronica, salutoni, buonanotte, un bacino sulla guancia, da parte della stazione Falchietto, già ci siamo conosciuti di persona. Ciao Veronica, passa una buonanotte. Ciao ciao a tutti ed è partita in quarta, su chi si va? Una vera brica arriva, sì. Ah, va bene, già va bene. Anto, dimmi. Mi ha detto se la porto alla giostra mi Veronica stasera. Gnogno. Oh. No, se ha fatto da brava domani già ti porta papà alla giostra. Ma un mezzo secondo di bianco per me, dai. Positivo, vai tranquillo Giuseppe, vai tranquillo. Cazzo, carissimo Falchetto, se non è che sono accorti che stavano volando su che hanno messo a posto l'apparecchiatura, perché magari se ne sono accorti che stava mollando lì e loro non possono mandare spurie, se ne sono accorti magari tecnici e hanno messo a posto tutto, ecco perché non c'è magari il segnale, capito? Infatti, perché la settimana scorsa ce l'aveva il sabato, ce l'aveva la domenica, Ma se non c'è evidentemente sono intervenuti, perché quello è un guasto per loro, non possono mandare cose che non devono mandare, perché loro sono più controllati di noi, se li scoprono sono affari loro. Infatti, si conferma, in effetti magari hanno mandato la squadra e hanno riparato il guasto, perché non è possibile che uno deve avere tutti questi disturbi in casa, non vanno bene queste cose, ma penso che sia stato proprio così, magari hanno mandato qualche squadra e hanno messo a posto tutte cose. Sì, perché magari c'è stata qualche segnalazione che non funzionava qualcosa, lì sono andati a verificare e si sono accorti che c'era qualcosa che non funzionava e l'hanno messo a posto, capito? Cosa ti voglio dire, Antu? Perché a non esserci più all'improvviso, più che quello non è. Sì, infatti, magari con la mezza denuncia che stava facendo Giuseppe, magari è stato proprio l'esco posto che l'ha mandato in zona e avranno verificato, mio vero, il guasto e avranno messo a posto tutte le cose. Magari c'è stata la segnalazione che qualcosa non funzionava e sono andati i tecnici a metterlo a posto, capito? perché loro ce le hanno quelle strumentazioni, no? Se ne accorgono subito se qualcosa non funziona bene, allora cercano un modo di pararla. Ah, già Padre Roccia. Vabbè, meglio così. Se è così va più che bene, alla grande. Vabbè, là, ci sentiamo da dentro, sono arrivato io. Cappa, andata lì, là ci sentiamo dentro, dai. Eccomi qua, scusate. C'è problema, Natalino sta entrando adesso a casa e riprende a casa, dai. Cava. Non ci sta assolutamente problema. Non ci sta problema. Cava Roccia, Gianni, Doppio Ru, la velina, ma tutti spariti, no? Ma magari Pierpaolo sta cenando, Cappa. Oh, a dire la verità è venuta di nuovo Flavia anche a me, però non ci voglio entrare in cucina, se no se mi siedo rimangio. E se fame, basta andare Giuseppe, non c'è problema, non c'è problema. E beh, come sta andando quel programma Giuseppe? A dire la verità ho spento perché mia moglie con la bimba si sono trasferiti in camera da letto, lo stanno guardando lì. E io tenere la televisione in cucina accesa quando non c'è nessuno, un po' contrario, e poco fa sono passato col dittino, il click e spento tutto quanto. Corrente risparmiata, Giuseppe. Cappa fa che, tanto, per tenerla c'è già e sempre accesa, amico, la televisione in cucina e da mattina presto accesa. Cappa, me lo raffredda un po', è vero, si fa riposare. Cappa, io poco fa ho detto a mia moglie, guarda che con la televisione calda e prende un secchio d'acqua e buttaglielo sopra così raffredda. Guarda, speriamo che duri altri 20 anni mica la televisione, Anto, se no non ne compro più. Sì, la maggior parte si fa per i bambini più che altro, poi posso dare esperienza che ho avuto quando ero fidanzato, c'era mia cognata piccola, mia suocera gli accendeva il televisore dalla mattina presto con queste canzoni animati e più animati fino a tardi sera. E si conferma. Hai capito? Si fa più che altro per loro, non è stato per lui. Avremmo cliccato il tastino come hai detto e bacia ciccia. Io tanto guarda, ma non è tanto per essere, diciamo, parlare egoista perché non va bene, però diciamo la domenica ti ascolti quelle due partite e se c'è, guardi il Gran Premio, quando lo danno, quelle poche ore e poi via, poi il resto della settimana per me è sempre spenta. A proposito di Gran Premio, mi sa che è domenica la Formula 1, no? Domani? Domani. A che ora andranno? Alle 8 mi sembra, del mattino. Ma, non lo so tanto. Devo essere sincero perché oggi è stata una giornata abbastanza movimentata per me, no? E figurati che non sono riuscito manco a comprarmi il giornale. E devo guardare su televideo e vedere un pochino a che ora la danno. Ma non penso che sia così presto, Perché dove corrono? C'è il fuso orario, capito? C'è il fuso orario, non so dove corrono, però c'è un fuso orario. Allora, se così, niente, domattina ci sintonizziamo alle 8 belli strabaccati e ci guardiamo il Gran Premio. Cappa, va conviene guardare prima il televideo, E a me me lo stava dicendo mio compare, che lui lo prende tutti i giorni il giornale. e penso che, lo meno, bugie non me l'abbia detto. Io la verità non l'ho controllato il giornale, ma se mi ha detto alle 8, vuol dire che alle 8 lo danno, eh. Pagato. Beh sì, prendiamolo per buono, perché se uno è patito di queste cose, guarda, può essere come quello che non si perde una partita di calcio. Sì, infatti, sappiamo che lui è un interista proprio fanatico e non se ne perde una, non se ne perde una. Mamma mia, allora stasera con il suo esceniendo, Brogorino! Sì, nero, luce da nero veramente, mi ha convinto ad andarci anch'io a vedere la partita. Voci, ui, mamma mia, è troppa la putti di vini della partita, ma porca miseria, quest'arbitro, pum, de papà, la putti di vini, di troppa, mi stanno facendo il fegato cattivo per niente, ma putti di vini, e beh, c'era un bicio dentro. Ma ci sono cose migliori anche del calcio. Sono al pensiero che questi guadagnano e straguadagnano. Guarda quello che loro guadagnano in una stagione, che loro cosa corrono in una stagione calcistica, poco e niente, no? Pochi mesi sono di cosa che fanno. Noi dobbiamo morire e rinascere almeno, che ne so, 100 volte per, onestamente, per guadagnare quello che guadagnano loro in una stagione. Pensa un po' che minimo loro pigliano 40.000 euro all'anno, pensa un po'. E quando un cavolo li faccio io quei soldi lì? Perché? Perché ti dico, a me chi si ammazza, che vinca, che perde, ma a chi non se ne frega. Infatti, non è che mi tenessi frittato, eh. Bello, è domani notte, a luna c'è il pugilato, però è caccia in pugni, no? Quello non me lo perdo, sono mondiali e non ce ne perde nessuno. Cappa, ho visto anch'io la televisione, me lo guardo anch'io. Quello che mi piace, vedi? Si può dire che i soldi sudati sono proprio quelli, i piedi cazzuti da tutte le parti. E quando ti danno la borsa te la danno, se te la meriti te la danno ed è combattuta, lasciamo perdere, va. Non è come il calcio, sì, calcio, corri, sì, prendi il calcio, quello che vuoi, però sei troppo super pagato per determinate cose. Cappa, come ci avrei fatto salire domani Palotelli sul ring? Ah, ma che? Gli sarebbe passata tutta la fantasia a quello lì, hai visto? Talmente ne prende i soldi quello che anche il colore della pelle lo sta facendo diventare prepotente. E penso che c'ha solo 20 anni, quello è la colpa, io non lo do neanche a lui, perché lui si può dire è un ragazzo. Ma la colpa non ho più a questi giornalisti, a questi, tra virgolette, allenatori, gasano i ragazzi, capito? Tante cose sono da vedere, capito? Cappa, d'accordo al 100 con te, dagli 1.500 euro al mese, falli correre, però a tutti quanti. 1.500 euro al mese, lo sai come correvano per guadagnarsi quello stipendio, qualche? Ehi, già lo credo bene. E tu considera che ci sono delle squadre straniere che prendono una miseria e giocano veramente bene, guarda. Veramente, ma veramente bene. E prendono la metà della metà della metà di quello che prende un giocatore italiano. Beh certo, basta guardare quelli, adesso non mi ricordo quand'era la cosa, no? Però era chi era dentista, chi era muratore, quell'altro era meccanico, quell'altro era carpentiere, ecco, si prendevano il loro stipendio per il lavoro che avevano, in più gli riconoscevano qualcosa perché stavano giocando lì. E va bene, così va bene, ma qui con quello che pagano una squadra di calcio, ma lo sai le finanziarie che pagavano qualche, le pensioni che riuscivano a pagare, l'INPS che avevano rimesso a posto con tutti i soldi che buttano con questi quattro stronzi. È vero. Troppo male stiamo girando, troppo male. Troppi soldi stanno girando e mi casano troppo i giocatori e infatti mi prendi adesso questo quel giocatore della Roma, Turpi. Quello adesso tra pubblicità, sia lui, la moglie, adesso ci metteranno anche i bambini e piglia la barca di soldi, più gioca a pallone, pensa un po' cosa entra in quella casa lì. Eia, ed ecco perché io dico, fai girare l'economia, dai lavoro alla gente, non sempre alle solite persone, e poi tutti questi soldi che danno a questa gente qui, pur di non tagliare le gambe a questa gente qui, dicono, ma lei è troppo giovane ancora, ha 65 anni per andare in pensione, hai capito? La porcheria, Giuseppe, una porcheria, per carità, fanno e disfanno tutto loro, tutto sanno loro, tutto si fanno le leggi a conto loro e compagnia bella, infatti mi è recapitata la lettera Berlusconi con due proiettili dentro, e un'altra lettera, un altro deputato, che la prenda, perché quella gente lì non scherza, Cappa di positivo, peggio per loro, perché arrivato a un certo punto è peggio per loro, tante promesse, tante cose, perché visto adesso periodo di elezioni, siamo di nuovo tutti quanti, caro amico. Cappa, se non fosse stato che non puoi fare nessun documento, io non ci sarei andato più a votare, la verità si dica, non sarei andato mai più a votare. Purtroppo ti mettono in condizione di andarci a votare, lo sai perché? Che se non voti vai a chiedere un documento, tu non sei mai stato scritto nella lista dei votanti e allora tu perdi tutto, capito? Non ti fanno più dei documenti né niente. Se non fosse stato per quello, guarda Giuseppe, ci avremmo dato tutti una panqualla, tutti quanti. E si conferma al 100. E non solo per i documenti però, viene fuori anche magari la lista dei cosi, delle graduatorie, e guardano anche molto a quelle cose lì, perché ti ricattano. Sì, infatti, quello che ti sto dicendo. Si attaccano, si appigliano a quello, dice come mai, tu non sei mai venuto a votare, pretendi di essere in graduatoria o compagnia bella, no, su quella teoria ti ho ragione, perché c'è sempre pro e contro tutte le cose, l'ho sempre detto io, non c'è nulla da fare, loro hanno il pugnale dalla parte del mare, ho capito, e tu devi pungere il dito, ma non c'è nulla da fare. E si conferma, però io ho imparato una cosa, vado a votare, come me le danno le schede, aspetto lì, conto sino a 10, manco le apro, esco, gliele lascio tutte, via, perché non me ne può fregare di meno, tanto sono una massa di ladri, uno perché tu voti centro, destra, sinistra, in alto, in basso, nord, sud, est e ovest, e uno più ladro dell'altro, quindi che vadano al diavolo tutti quanti. Infatti, ma è così. È così purtroppo, poi tu li vedi quando ci sono le votazioni, amico, carissimo, bungere, procurami gente, mi dia il voto, una volta che arriva la poltrona, caro Giuseppe, non ti conosco più. E si conferma al 100, toccato con mano più di una volta, ma amici che hanno un certo spessore, sia qui né o qui che a Roma. Quelli che sono a Roma addirittura, Giuseppe, cancellato anche il numero di telefono, non esisto più. Per carità, è proprio vero Giuseppe. Tutta la barca è una barca ripresa per i fondelli, a tutti però, tutti italiani come siamo solo presi di lì e basta. PK di positivo. È da precisare una cosa, che con quelli che sono a Roma, mai azzardato a chiedergli, ma non un piacere no, ma manco ad azzardarmi a fargli il numero di telefono io a loro per dire come stai, perché sembra magari quasi che sto telefonando per chiedergli un piacere, no, mai fatto una cosa del genere, eppure dimenticato da anni. Fatti. No, io ne ho avuto una brutta esperienza e mi è bastato. Io qua ti faccio idem come fai tu, dentro aspetto e vedo tutta la cosa come sta. Cappa, non ne vale manco la pena di starci dietro a questi, perché guarda, io li definisco in bonariamente dei maiali. Sì, vabbè, si conferma. Così è. Purtroppo prima ce l'avevano quello che dice che mangiava quando ne nasce e poi venga da pangere, ma vedremo che scendere quel tizio Caio, vedrai cosa faremo. Tutta la mantessi ministra, non ha cambiato nulla. Cappa di positivo, ecco perché io dico che quando nella mangiatoia cominciano a mettere quella cosa lì, che sia destra, sinistra, alto, basso e coso, tutta, ma se lo cambi e mangiani, e di te, poi, ma manco esisti. Qua, non saranno pensando a noi, no, noi lasciamo perdere, va. A me, ti ripeto, mi è bastata una esperienza solo, non le voglio più passare queste esperienze. Si venga di votazioni che la crea di muro. Dopo così, non me ne può fregare di meno. E ciò dimostra che il mese scorso si sono aumentati lo stipendio di 1.350 euro, no? E però erano, chissà perché, l'unica volta che erano tutti d'accordo. C'era la destra, la sinistra, il centro, le liste di coso, e tutti quanti lì a Roma, tutti d'accordo, 1.350 euro di colpo, una botta di vita nel loro stipendio già alto. Però erano tutti d'accordo lì. Quando si parla di denaro, i soldi ne hanno cavato gli occhi a Santa Lucia, diceva quello. Purtroppo è così. E confermo al 100. Hai capito? La carità, ma stiamo attenti, perché il mondo varia, capito? È bello perché varia il mondo. Però intanto per adesso la bella vita la stanno facendo loro. Va bene, però purtroppo è così, purtroppo vedi qualcuno si alza che faceva il pianista e si improvvisa Tore, pum, piglia, entra lì dentro, visto? Marone, come cavolo si chiama, quello era un pianista in bar, capito? Faceva piano bar. E adesso lo vede, ministro, lì, che c'è triga? Eia, ma è così e si conferma qualche. Che d'altro, se ne andava con i trans, spendendo a manca a destra, vai tu, e tanto no, e io pago, diceva Totò, e io pago. Cappa, 5.000 euro a motto. Hai capito? E non facevano questi soldi da noi, capito? Non da noi. Cappa, io 5.000 euro e forse riesco a guadagnarli in 4 mesi. Calma, pensa un po', la carità va, è tutta la schifezza, veramente la schifezza va, la carità, senza usare tutti i miei, perché ci possono essere anche bambini in mezzo, però guarda, fanno solo pena, pietà non si può dire perché fanno schifo più che pena. Cappa di positivo, avanti Natalino. Ho detto cosa devo fare? Io sono disoccupato, quando sono dentro la riunione devo prendere lì tra e scaricare il caricatore addosso a tutti. Cappa, però in fronte, in maniera che non se ne alzi manco uno da terra. Ma tranquillo, se mi sparo io, non si salvano. ma sono una manica di maiali, come ho detto poco fa, ma quando mai vedi la disoccupazione che c'è in giro, la disperazione che c'è in giro, e nonostante tutto si riunisce destra, sinistra, centro, tutti quanti, maledetti che li trovino, tutti d'accordo, però a telecamere spente, no? 1350 euro di aumento di stipendio. Io cazzo, io mi sono disoccupato, cazzo, tutto cazzo da Eddie. Cappa la parità. Tu figurati che 1350 euro non li prendo manco io al mese, figurati. E loro ce l'hanno fatto solo di aumento così, no? Perché loro hanno le loro spese. Le spese gliele avrei fatte fare io in un'altra maniera, però le spese natali non così, che se lo ricordassero per sempre, però Oiuia, per carità, per carità, chissà come andremo a finire. Ho l'impressione che non tarderemo a finire male veramente. Fermo, vado al porto pubblico con tutto, cercando sempre, perché io non mi fermo mai, però purtroppo ancora non è trovato. Riprende da Giuseppe. Io la ripasso immediatamente a te, che vengo subito, che c'è la bimba che chiama, tanto per cambiare. Cappa. E dove gli altri che fine hanno fatto, perché? Non è entrato nessuno? No, Natale, non è entrato nessuno. Non ti saprei dire niente. Andrà bene nera, io la metti di via. Così stanno facendo, disbando, facendo tutto come vogliono loro, capito? E chi ce l'ha di dietro siamo sempre noi, poveri cittadini. No, lo sai, per ogni cosa che fanno loro già paghiamo noi. E allora, per carità, guarda, io. Ma io mi prendo solo una cosa, Natale, la salute. Che ci sia un po' di lavoro, che duri un po' il lavoro, se no se mi costringono sono capace anche andare a rubare io. Un casotto, c'è crisi, loro dicono che la crisi è passata, io vedo cazzo che c'è una crisi, si dà gli affetti, ma affettimi. Te lo posso immaginare, me lo posso solo immaginare, e senza immaginarmelo le so, le vedo le cose. Purtroppo così. E anche parte di tutto è, di loro se ne comprende più nulla. Tu vai che vai a lavagliare, andare a pigliare un drogato, vado a lavagliare un drogato che poi non fa nulla. E tu che veramente hai bisogno di lavorare, non ti danno l'opportunità di lavorare. Tutto qua. È un macello veramente qua. Infatti non è quello, che ci sono prima gli extracomunitari, gli erogati prima di me, non hanno più preso, agli extracomunitari di educazione di cura, anche da in casa Zoia, e gli bravi prima a noi, all'altro abuso di me. Infatti, non è per essere nazista né nulla, però è così, sono troppo, ma troppo agevolate queste persone, ma tu... Quanto ti pensi che pigliano 30 euro al giorno senza fare niente? Loro pigliano 30 euro al giorno e non fanno nulla. Sì, già lo so già. Già lo so. A chi non è dati da me 30 euro alla vista senza fare un cazzo? Invece dalla Eddie. E male sui figli da cui attiganti. Allora, io ci avrei messo la firma se mi avessi dato 30 euro alla D. La firma ci avrei messo io, a vita, guarda, per quanto campo. Io manco mi consumo quei soldi. E allora, purtroppo, Giulia, super agevolati in tutto e per tutto, e tu che paghi le tasse e te la poni nel culo, cos'è nella frase? Sì, solo quello forse. Tra poco tocca andare ai giardini. Guarda da Baracchini. E così noi andiamo a rinere, ma mi sa fra poco, se vediamo la borsetta, tocca andare a fare bacchetti, cazzo, papo di campà. Allora, su chi andiamo, facciamo i ragazzi school. Ui ui, sulla nuova sabino, ui ui. Ma sei bello, mi ricordo con le carte a rete, tu. Io ya, solo mi tocca fare un intervento, punto. Mi tocca a segnare la vescittola. Benissimo, buon detto. Per carità, mannaggia, la marina mercantile. E che ci può fare? Che ci può fare? Con macca? Entrato Giuseppe, mi. Noi ci stavamo già travestendo da finocchi. Cazzo, allora vengo pure io, vengo pure io. Se a Fatima vengo pure io. Ma per una cosa, mi, che si faccia di un culo. Non mi vengo più. Carissimo Giuseppe, ci siamo rovinati. Carissimo! Cazzo, ma che? Allora con chi sto, cazzo? Sei rimasto intatto? Tutto sì, meglio rapparmi, cazzo, ma che sono in treno, però. Ce lo credo io. Sì, da sì, rimane con le facciate senza di rapporto. Allora, non mi sei facciata. Senza di rapporto. Cazzo, con la bocciola che avevamo, diciamo, cazzo, smarmettati, cazzo, affamati. Via, tu sei pure un verbo, che fai un verbo, cazzo? Appunto, dici, me. Dici, non vedi quei tre lì, io. Ci andiamo. Su che si rulla, cazzo, si copre una giussa. A tutte e tre, fai. E se ci volsetta bene sopra è tutto. Cazzo mia, come mi ha tutti i gatti, cazzo. Boh boh, cazzo, manco in chiesa siamo fortunati me. Io capito, per carità. Ma che? Magari da voi, cazzo, si ferma e dici, loro sono in multa. Dici, puro, cazzo, non sono, cazzo, che stanno in culto, cazzo, affuscicati, tutto quanto, cazzo, è pure mo. Dici, e perché? A che siete smarmittati? Ma qui c'è una bocciura, purtroppo. Anche come tante una prima di si dice la fuccia di come. Che fa tu? Prova di gruppo di campamenti facciando. Ah beh, ma che te ne torni ragazzo soddisfatto, cazzo. Ah beh, la barbetta ve la smaggiorata virale. Carissimo! Carissimo! Su che andiamo! Ui, ma cosa volevo fare? Tanto di mezzo non fai la vita, mi devi appesare il culo. Ui, scusami Giuseppe, mi sei uscita la frase, non dovrei dire. Tranquillo, tranquillo, qui è tutto KK. Lì tace tutto, da Carino lì tace? No, no, già sono da solo, non c'è problema. No, ma io sono andato così. Gava, gava. Va bene. Ma si presume la piccola della teloce che sia solo, se no è no, che siamo bene giù, va ridibile. Sì, sono K, sono lui. Gava, gava, allora vai. Allora possiamo aggiungere qualche parola in più, dai. Sempre nei dovuti modi, dai. Cava. L'importante è avere sempre la marmitta in ordine. ma la mia maggiorata, turbo me lo messa la marmitta, turbo. Oh, perché? A tirarmi dove la vespetta, che vuol dirmi la marmitta SS. SS Special. Sì, stronzi siamo. Però che occorreva di più, eh? Sì, va bene, la rubrica camminava di più, che tutto di rubrica era via, più là. E la mia era 225 più la famiglia SS, le rotte cantine, il manubrio, tutto cazzo. E la mia era bella, la mia mi si cucinava. Sì, ma io voglio vedere a Faichetto stanotte, state con la marmitta SS e con i tacchi a spillo a vedere quanto curri. E vabbè, no, di cazzo ti arresti, ma devi pulire. Allora, si svegliano? Carissimo! E male che ti venga. Quella migliore che mi ha detto deve essere un po' più bello, Antonio. Giulia! Sì, ma i cazzetti! Che aspetto, però quella cosa mi bisogna acciappare i voti della taglia mia, che io faccio il 44, acciacate le volte a spillo. Cappa, tagliamo il pezzo di davanti. Giunto si trova di sorri. Si fanno di su misura, non si è. Usare così una punta di zero. Fai che? Tagliamo la punta, l'importante è che ti hai il pallone dentro, ma poi tutto questo che invece già state ne secondo più di metà di dita accata davanti, però già non fa nulla. No, ma che si deve battere in terra, si cade curri, attaccare più una volta, con un piede. Avanti l'amico delle latte trucche, capo. Stavi dicendo le dita fuori. Si fa. Come te che si chiama? Il pedicura. Vabbè, vabbè, è pure bene. Gatta, avete fatto vedere che andranno in televisione, non so quanti uomini ha passato e ne passati. E non so quanto pagano per una prestazione, no? Ma di. E chi ti ha detto che è sana come un pesce? Pinocchio! Allora, pure è sana, eh! Ma mi faccio lo sai, va bene! Mi sono vedere la stampa del culo, ma te vedrà! Ma mi dai le palche! E chi ha metricito? Tutta è sana! Tutta rifatta, tu la vedi, gatta, sembra proprio una bambolina! Ma questa è la merda, io dove è te! Sì, ma è canto tutto l'ora, ma è canto tutto l'ora, ma è ah, appunto, e se campano non è tanto tutto l'ora, ma è canto tutto l'ora, tanto tutto l'ora. Bobo, carissimo! Siamo usciti dalla marmitta, allo trombone, dai! Ma non sei che sono canale porno? No, questo è canale sexy. Sexy. Carissimo. Carissimo. Su cambio. Su cambio. Come è? Salta giù, salta su. Salta su, salta su. E che te ne dire? No, salta tu che io non posso saltare. Sardegna domani, io mi mie gogo, cazzo, intacchi a spillo, su che si rulla, avanti vela, buonasera e mi ha sentito bene. Mi ricordo che il cazzo non intacchi a spillo, Giuseppe. Sì, sì, che attaccato a culo Bugetti. Carissimo Falchetto, c'è tutto bene che siamo rovinati. Perché c'era bene che voleva dire cosa Giuseppe, va bene. Allora Giuseppe, cosa mi dici? Falchetto, stasera è latitante, se ne è voluto andare latitante. E niente, qui è tutto K di Roger, è tutto positivo e niente. Lo guarda, la cosa più bella è che non ho manco un filino di QRM stasera. Bello, tranquillo, sembra che stia ascoltando una radiolina. Cazzo, non è che la famiglia abbiamo messo paura stasera, no? Sì, perché la cosa è un po' strana, eh? Niente, guarda, ti direi bugia se ho sentito un cicitto montò di niente, nulla. Abbiamo soldato la rebuccio. Cappa, speriamo che sia un fatto una volta per tutte. Speriamo che la luce sia accorta di qualche cosa, magari la propria c'è qualche cosa. Ma speriamo Pierpa, perché anch'io sono meravigliato, perché non sbagliavo un colpo questo segnale qui. Speriamo che sia così, che abbiamo messo la pulce nell'orecchio e si sia controllato un po' la città. Ragione, visto che stavamo parlando di marmitte, magari anche il cazzo di Basiani cazzo la SS veramente. Vabbè, aspettiamo e vediamo. Se sono cose fioriranno. Cappa di positivo, l'amico Vela. Cappa di positivo, mannaggia. Vabbè, cava. E me la sta lì, per il nome, tutto a posto. No, se sono cose roseranno, se sono fiori fioriranno. Dai tu, cuocuomane! Cuocuomane sei tu che te lo dici, cuocuomane! Cuocuomane sarai tu, Luca Bugiuni, hai capito? Lo dico anche nel mio telefono? Ah, va, delinguente, va! Ah, delinguente mi ha detto! Non parli adesso, bene bene, ti faccio mangiare un brodino di mamma! Capito, Radio Vela, se sono rose, roseranno, cava. Se sono rose, fioriranno. Ma se sono fiori, fioriranno. No? Cava. Comunque, stasera non c'è la prepagazione. E la prepagazione? È stata prepagata, non c'è stasera. Stasera non arrivano quelle schioppettate che si sentivano. E ripeto, come ho detto poco fa, QRM è praticamente sotto zero qui. Stasera ce l'abbiamo cantato in Santa Ragione. Tanto cazzo mi venivano i porripidi nella schiena. Io vedevo dietro le persone che c'erano, delle sagome che stavano guardando, di qua mosca. Ma speriamo bene, dai. Ma è Gianni, il doppio room non entra stasera. Positivo, K di positivo e doppio rom. va bene così. K, cordialità ricambiata al 100 da parte mia e una stretta di mano, Gianni, dai, e vai tranquillo. Ciao Gianni, ben sentito. Ciao Gianni, ben sentito, ciao. Novità, ce ne sono. mi sentite bene con questa radio, sì. Io ti sento bene, Mario. E tu... Giuseppe, e poi fagli da... Io ti ascolto bene, perché ti ascolto bene alla grande. Che positivo. Avanti Giuseppe, fai girare. Cappa di positivo. Beh, Mario qui è un 9+40 e meglio di così non si può. Radio Super 5 e niente. Va bene così. Avanti l'amico del latte dolce, adesso mi sta, mannaggia, mi dimentico sempre il nome. Antonello. Cappa, avanti Antonello. Qui Mario. Beh, Antonello, come sta là? Sempre in agguato, sì, via. Arrivi, via. Lui. No, Mario. Dimmi. Qui tutti che volevano andare a fare i soldi stanotte. Volevano andare a fare i soldi? E mica si raccolgono con la pila come le lumache. Tranquillo qua e sereno. Sì, ti confermo Mario. Io da quando ho cominciato a modulare mai sentito una serata calma come stasera, di QRM e di tutto. Comunque, se potesse interessare a buon Giuseppe, ho fatto un controllo più dettagliato, 6,9,9 più 25 a picchi positivi, stai andando alla grande. Mario è 9 più 30 a picchi positivi. E sono contento, là, mi va bene, questa radiolina funziona. Ma sono contento perché siete contenti. E noi siamo contenti che tu sia contento, detto. va, avanti Vela, se la riprenda tutta. E cosa riprendi? Cosa vuoi riprendere? Il bello stanco. Vero, bello stanco e non ne ha più voglia. Kappa. Tempi migliori anche per lui, lei là. Non sono pensare, lì, sabato, a questo non stavo mica tanto bene. Poi ho fatto domenica, lunedì e martedì alla grande, proprio, con i fiocchi. E il capo, più o meno come me, io ho iniziato da giovedì a essere quello senza voce. Adesso speriamo che mi passi in fretta. A passaggio. Soltanto che a passaggio, eh. Io, d'accordo, dai. D'accordo, lì, speriamo bene. Natalino. Rimane impassibile sempre, eh. Già, sono impassibile. Va bene, 9:20, non più lo volevi. E Giuseppe che ha 25 a cosa, a come si chiama, a Falchetto. A me mi è sembrato che il Falchetto ci ha detto 9:10 a te. E la sai di che mi siano vedesi? Giuseppe, quando ti arriva a Falchetto? 9:25, 9:20, dai, 9:25. Hai visto che Giacomo di Cuglio Romario? Ma guarda tu, diciamo che a me mi sta arrivando bene, cioè 9:20 non è da rispettare come a radio me. Quasi quasi non mi arriva cosa, vedi, dico sì Giuseppe, non mi arriva quello lì, ed è più vicino a me. Perché Giuseppe tanto ti arriva a te? Giuseppe è come segnale appena appena più basso, è quasi 9:20 ma non ci arriva. Avanti Giuseppe. Pari positivo Mario, avanti Rosa Radio per Giuseppe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no, Giuseppe mi sta arrivando 9:40, stavo facendo confusione io, 9:40, tu 9:20. Non me l'hai visto. Ma noi siamo un tiro di schioppo, tu sei lontano me, sembri così ma sei lontano. Poi infatti, adesso quando arriva l'antenna nuova la mettiamo sopra e vediamo se le cose cambiano. Ah, io penso di sì, eh. Io penso proprio di sì. E beh, questo silenzio, cos'è, cos'è? Cari, comunque io sto monologando, chiacchierando con quello preciso al culo lì ora. Ma ho capito che è quello. Ah, ecco, pagliata. Credevo che non l'avevi capito. Con l'85. Ehi, ho capito, ho capito. Adesso ho capito anche chi te l'ha dato. Io non lo so se lo hai capito o meno. Ehi, quello mi viene tanto a cuore, se va senza far nulla. Beh, riprendi Giuseppe, se no ti addormenti. Mi fanno contro il mondo adesso del Radio Mario, visto che adesso ha scaldato un attimino l'apparecchio. Vedi un pochino il buon Giuseppe come ti arriva nelle tue coordinate. Ma sempre 9:40 a me mi sta arrivando. E invece c'è qualcuno che mi sa dire. Cosa ha fatto la Ferrari nelle prove? Terza. Terza? Capa. Sì. Con Alonso. E cosa? Cosa facendo schifo? Quando devi andare al lavoro che si alza domani e domenica alle 3. Ma lascia perdere. Noi ci alziamo alle 3 perché? Ma non lui no. Si conferma, si conferma. Cosa devi fare alle 3, Giuseppe? No, niente. Così. Sto a vedere se c'era qualcuno in modulazione, niente di particolare, e poi mi ricoricavo di nuovo. Alle 3 domani mattina sono io che sono in piedi. E perché devi andare a raccogliere i funghi? No, perché alle 7 ho già fatto la prima mazzolata. Te lo sa Giuseppe di che cosa? Ma non c'è bisogno di andare così presto, mi Pierpa. Ma col cambiamento di orario a me non me la fregano, così io sono presto e me ne faccio una bella mazzolata e cambio. E K di positivo, mannaggia. Mi sumino non ho intenzione di andare in Paramo. Stavo dicendo, se vuole vedere il ruolo diciamo che nonostante tutto la mia è abbastanza ordinata. Allora va, allora va. Alla grande, sì. Sicuramente per la schifania dopo le mani in cabo, traffici di alimentazione, carri, ti spaventi. Su che ce n'è? Va bene. Giuseppe, quando viene qui Giudice, poi viene da te, ma io penso che sia su sulla divina occhi, che te ne casino. Non ti credo, anche qua è difficile adesso con me, Mari. Sotto la scrivania fa paura. Ragazza, io... è meglio che non te ne dica niente, va. Anche se no, fuglio, mi dice di capo in occhi. Lo so. Ma immaginati che adesso c'è anche questo qui in più. Allora, c'è un alimentatore in più, c'è un coglione, c'è tanta roba in più. E io invece non c'ho più nulla, si può dire, c'ho pochissima roba qua, non c'ho più nulla. Ho eliminato tutto il superfluo. Allora, io ritengo come antiquariato, allora, c'è questo toccante lucido. Bellissimi, guardo la macchina, un 5024, non avevo la mia tomba di mio fratello, cazzo, vedo la nuovo. Anche questo qui è un 5024. Sì, quello azzurro, là, già ci siamo capiti. Non avevo la mia tomba di mio fratello, già mi si è dispiaciuto, perché è nuovo. No, ma questo non è azzurro, Questo qui è grigio alluminio, dai. Però è lucido, nuovo. È il colore suo, è azzurro, celeste, va, martellato, rimane. E c'ha la stampa cremata. Io la stampa non ce l'ho, perché quando me l'hanno regalato era così. Io l'ho solamente spolverato e messo qui dentro lo scaffale. E poi c'ho una CAI. Non ho capito. Comunque quello è il suo originale, come ho detto io. Capito. C'era tutti i gommini, tutto. Non rimancava nulla, non aveva una bizzica. Non è cacciato un buscotto della macchina da forzarselo via. C'è l'attacco del microfono che è diverso da tutti gli altri. È tipo quello dello stereo. Sì, già lo so. Quello c'è buio, c'era anche il microfono suo originale della toccaia. Poi io avevo il microfono amplificato. Cappa. No, io ti ripeto, ne ho tanti natali. Però sono tutta roba vecchia, dai. E questo Asacchi e questo toccaia me l'ha regalato un amico che abbiamo in comune, poi gli altri, qualcuno l'ho trovato buttato nei rifiuti, dai, a Piazza dei Segni, e qualche numero era mio, tipo Corso, 706 della Intec. Poco fa quando sono arrivato. Io non lo faccio mai scaldare. pronto? Via. Sono i garzoni privati, non altro. Non è come il 14, questo, è diverso. Buona sapersi. È diverso in tutte le per tutto, perché il 14 è poco più di un maracchino. Quello è diverso. È un'altra cosa. È come dal giorno alla notte. Appagappa, va bene. E adesso tutto è che ci faccio la mano. Tu mi dai il 140 e non riesco a usarlo, per esempio. Perché già lo so come si usa, già mi regolo, però ci metto più tempo. Invece col mio so già dove toccare e via. Ehi, appagappa, come tutte le cose, dai. Come tutte le cose. Infatti. Poi c'ha un sacco di memorie e quello, è tutto diverso il quello lì. Beh, il 140. Quindi il 140 è poco più di un maracchino, prende più colpi, più tutto. Capito? Invece quello lì, addirittura se c'hai i filtri come il mio, E sono contento, là. E poi, uno di questi giorni, o vieni tu o vengo io da te. Così mi fai vedere almeno le cose più essenziali. Quando quello lì lo impari, il 14 non lo puoi più vedere. Perché non ti vede differenza, capito? Quell'interruttore che c'hai sotto, per esempio, sono i filtri lì. Ed è così subito perché non funziona se non c'è il filtro. Cappa, vabbè, là. Quando vieni tu mi deduci di poco perché non c'ho manuale di questo qua, così che non ho potuto leggere niente. Poi c'è la tastiera, quello lì, puoi andare nella frequenza scrivendo nella tastiera direttamente, non è che tu se ne già ti devo lì. Pagappa. Per girare il USB, io non la uso mai, me ne sono pure dimenticato che si usa, ma prima gliela usavo bene. Capito? Tu scrivi la frequenza e ci vai da solo senza usare il USB. Cappa, vabbè, tutto è buono a sapersi, con l'andare del tempo miglioreremo anche, no? E poi quello che non penso il filo, c'è l'accordatore automatico, puoi andare per lui. Appa, si conferma. Riprendi Giuseppe, se no ti dormi. Cappa Mario. Riprendo io. Vi saluto. Un saluto circolare a tutti, così non dimentico nessuno. E niente, QRT da parte mia. E ci risentiamo domani, con calma, tranquilli, riposati e tutte cose. Un saluto circolare a tutti, una serena notte, un buon inizio di giornata per domani e ci risentiamo presto, dai. Giuseppe chiude qui le trasmissioni, salutoni circolari a tutti e ce la risentiamo presto. Ciao e buonanotte a tutti voi. Ciao Giulia, buon tutto, ci sentiamo domani, avanti Mario, fare girare per Falchetto e tu per Pierpaolo, scappa. Ciao Giuseppe, buonanotte, buon tutto, e niente, tutte alle prossime, vai Falchetto. Falchetto non risponde, riprendo io, ciao Giuseppe, buonanotte, a risentirci da domani, dai, avanti Antonello. Tutti all'anno, presto, mi raccomando, Mario, vai all'anno, a corre. Sì, ma adesso vado subito all'anno. Che fittina. Andrà bene, là, andrà bene. Riprenditela, Vela. O anche tu stai andando all'anno. No, io non so all'anno, forse Antonello non ha capito male che stavo andando tutti a Nana, no, solo Giuseppe è andato a Nana, dai. E gli altri più sicura, non risponde. Margherita, respira. Antonello! Io sono vivo qua, sono! Ah, tu sei vivo e sei lì! Gli si avevi mandato una berretta fresca qua a me. Se me lo dicevi da prima, forse. Beh, tutto a posto, Eli, sì. I piccioncini rientrati sono. E capa, sto qua a me. Via, d'accordo, dai. Dalle la buonanotte da parte mia e mandali a letto. Sì, sì, già stiamo andando a letto. Tu zitto, diavoletto. Aspetta, andare là, riprendi il vela, facci sognare. Ma che se vuoi mandare con qua? Dammi il vigliulo. Allora, è sabato tra tutti. Adesso è sabato, è di divertimento, non è più così da andare a nanna. Quando andate più si andava a nanna perché non c'era televisione, non c'era niente. C'erano, ma adesso avevamo le salette a conto uscio. Ma che? E già c'era qualche discoteca, là. Anche qualche barella che non si vede più c'era. Ehi, io ero molto, molto piccolo quando c'era la barella. Anche a me che era rotta la Blatamona. Il burro lo so, che guardare la televisione. in piedi, ti è appoggiato. Come ti ricavate, se ti ho compreso? No, non so come ti ricavate. Egli, cambio di bolsi, non legge male, chi lo microfono e lascio. E tu abbassati il microfono, fai come te Maometto. Dimmi. Male, ma sì, in veicolo, perché il segnale è un po' oscillante qua. Ecco, più a male. E c'è un molto sottofondo rumoroso qua. Questo qua è un'emulazione. Ti ascolto male, Pierpa. Stai arrivando 3 di segnale, quasi 5. 3 di segnale ti sto arrivando. Adesso eri 5, ma ti copio un po' sottofondo rumoroso. Posso, come mi ascolti? La radio diciamo che è 4, ma il segnale c'è sempre 5 qua. Se mi fai capire la tua rumorazione, così riesco a capire perché, e magari possiamo aumentare. Non lo so, dove sei tu? No, in zona di Monte Rosello. Siamo vicini allora. Non lo so, come arrivi 5 a me di Santiago? Se arrivo 5 sei in zona di Monte Rosello. È positivo. Non so cosa dire, magari sono io sicuramente. L'amico del Cialaghiero, lo senti? No, prova a mandarlo, dai. Ti ha salutato, ma se non lo senti, evidentemente, no, perché lui era che mi stava ascoltando Santiago 910. Negativo, io allora non lo sento, sono io allora, è colpa mia, è l'antenna mia. Certo, perché se arrivo alla ghiera e non arrivo a Santiago 5, evidentemente la colpa non è la mia. Sicuramente, stai tranquillo, è la mia l'antenna, dai. E sono io qua, ricevo male. E niente, non lo sento all'amico della ghiera. Me ne sono accorto, perché ti ha richiamato e non gli hai risposto. Sì, mandami un salutone da parte mia, vai, da K2. KK ti contraccambia i saluti, 27 ti contraccambia i saluti. Sta chiudendo, ti auguro una buona notte, dai. Dai, ok, buonanotte anche a voi, dai. Ciao, ciao. No, lui sta chiudendo, io ancora devo arrivare a casa. Se stai chiudendo tu. Ah no, ok, no, avevo capito male. Ascolta, c'è ancora qua in modulazione, chiedimi come sta arrivando, se mi sente. Aspetta, Sandro, ci sei? No, ha già chiuso. Ok, positivo. E che antenna c'hai? Sembra la torre 27 per fare come la tua. Sempre quella? Come? Sempre quella solita c'hai, là. Sempre, sempre. Adesso gli ho messo uno di quei bastoni per tigere, quelli che si allungano, l'ho sollevato un po', ma è sempre la solita storia. No, io adesso sono in vettura, eh. Ti capisco male, come? Sono in vettura io adesso. Positivo, si sente, eh? E niente, ma tu l'altro 27 ricevi e esci bene, no? Non lo so, mi hai sentito un volte. Non devi dire tu se mi ascolti bene. È positivo, a voglia. Ma come ricezione è buona. Perché questa qui, vabbè, sarà che non è sul tetto, ma mi sembra mezzo bidone a me. Oh, invece, vuole funzionare bene. Non lo so, guarda. Sicuramente, non lo so, come montata, non lo so, ma funziona bene. Guarda, non ho capito bene, comunque i finali sono saldati tutto bene, sono saldato bene i PL. La metratura del cavo l'ho fatta giusta perché me le ha date giuste le misure. E niente, sicuramente l'altezza dell'antenna. Sicuramente l'altezza dell'antenna. Così meglio mi senti se mi allontano dal microfono. Sì, ti sento meglio. Comunque sarai avvicinando, ma avrebbe quasi 7 al suo segnale. E non mi sto avvicinando, mi sto allontanando addirittura. E allora eri qualche zona negativa, comunque sei quasi 7 su Santiago, La radio ti do 5 e sei chiaro e forte. Forse mi senti male, non lo so, perché mi senti male, comunque sicuramente avrà quella colonia un po' di saturazione. Questa è una radio modificata, arriva forte di radio, Sì, no, il problema è qua per forza, perché ho già provato altre persone, ma anche forse perché c'è una colonna attaccata, magari se l'attacco ti sento meglio, non lo so. Di solito questa è una radio, è molto comprensibile. Sì, no, ma se adesso sei chiaro la verità, poco fa eri più troppo sottofondo, dai. E niente, ti vuol dire, ascolta, ma se io me lo voglio modificare questo qua, cosa devo fare? C'ho un 40. Ho chiesto in giro, ma niente. Secondo il punto è? No, in 48, ma è normale, a 40 canali. E il modello qual è? È il modello, non lo so, è vecchia, è roba vecchia questa qui, è il modello proprio, il primi, dai. Ah, il primo 48? Sì, sì, un 48, è un Alan 48, ti sento un po' male adesso. Non lo so, perché fa così quello lì, dai. Per questo se vuoi modificare, devi darli a una persona che è con frequenza che porta lui a modificare. Ma a me la spesa mi hanno detto più o meno un prezzo, però non lo so, prova a dimmelo tu quant'è, se è di meno. E credo che la modifica, per quello lì credo è ancora, non lo so, adesso sono parecchio che alla 48, non ne faccio più, sono circa insieme a un suo 200. Capra, mi hanno detto una 300, 350 più o meno là. Comunque più o meno è lì, dai, sui 2-300. Non so che tipo, se vuoi modificare soltanto senza il doppio modulatore, se abbiamo una modulazione così come questo, che non sia sulle 200 e quanto, se poi vuoi le luci blu, insomma vuoi fare altro tipo di modifiche, con la modifica completa allora si parte su. Però in genere soltanto con la scheda conta, con l'effetto elicottero, così come questo, sono circa quella cifra, dai. Ma io avevo chiesto e volevo mettere quella cosa dell'eco, dai, la scheda dell'eco, i canali, anche bassi e niente. Intorno mi ha detto sui 300 euro per da mandare a Cagliari, non so, e ci voleva tempo, dai, circa un mesetto, roba del genere. Sì, se vuoi mettere anche la scheda canale allora sale. Credo che allora siamo nell'ordine dei 300, sì, con la scheda canale. Però certo che poi ci volessi la scheda canale, siamo intorno a quella cifra lì, non so, io ho due così, però non sono la 48 e questo è la 87. Questo è una 87, più grande della 48. Sì, sì, questo qui è cazzo uno dei vecchi modelli, questo qui avrà almeno, non ti dico male, avrà un 20-22 anni. Lo so, ce ne sono di vecchissima la 48. No, questo non è gioco, lo stesso comunque è un apparato più professionale della 48, perché non prende colpi, c'ha molti più canali di suo, c'ha dalla casa, senza aggiungere né scheda né niente. Questa c'ha 400 canali di suo. Capa, ma si sente che roba buona. Ascolta, volendo però sai come alzare i watt di qua? Perché io ho visto volendo ci sono alcune viti e mi hanno detto devi sapere quella giusta e altri watt. No, no, i watt cosa li vuoi sollevare, lì poca cosa sollevala lì. Sollevi altre 2 watt, ma attende poi a scaldare il finale, perché c'ha i finali normali, quello per dare qualche più watt devi sempre cambiare i finali anche quelli. No. Se sollevi quella lì devi fare una cazzata perché poi scaldano di più, perché non sono le finali per poterle sollevare. E si fa danno. Oltre sollevano dopo fanno danno. Capito tutto, dai. È meglio lasciarlo così. Io spero che ti si stiamo diventando un cazzo di antenna, perché sono carte già qualche mese così. Ed è brutto, eh. Perché non riceve niente, guarda, avanti ieri la sentiva e sentiva gente dalla, una ragazza dalla, quella non so se era la Francia o la Spagna, ma forte, fortissima, guarda. Guarda, io, l'unica cosa c'è quanto ce l'hai alta quella in questo terrazzino? Cosa? Quanto ce l'hai alta questa antenna, quanto è alta è tutto in questo terrazzo? Allora, io sono al secondo piano. Di fronte a me c'ho un palazzo che è alla mia altezza e l'antenna più o meno sollevata un così, 3 metri. Una cosa alta 5,50 metri, la puoi mettere? 5,50? Un'antenna alta 5,50 metri. Volendo sì, la posso mettere sì, è solo del fatto che non la posso mettere sul petto. Ma su questo palazzo ce la puoi mettere? Sì, quello sì. Guarda, c'è da Fusaro in vendita un'antenna semplice, semplice, leggera, pesa un chilo e mezzo. Si, le menti si monta questa antenna e si può attaccare anche alla ringhiera. È alta 5,50 m in tutto l'antenna. Si chiama la Ringo, ha 6 dB di guadagno e va abbastanza forte in trasmissione. E quanto viene a costare questa Ringo? Perché l'ho già sentita, forse la Giuseppe, non so se ce l'aveva lui. No, non ce l'ha Giuseppe, una quarantina di euro, 40 euro costa, ma ti può fare anche uno sconto, dai. Allora ti fa anche uno sconto. Un 38 euro presso il garage. È leggera, non ha, è facile da installare, non pesa molto, un'antenna da un chilo e mezzo appena. Si può attaccare a un tubo alla ringhiera e quella lì installa il tubo, c'ha due staffette, non pesa niente. Se c'è il posto da mettere la puoi sollevare così perché è alta 5,50 m. Sì, se così va bene anche alla ringhiera, perché io guarda la verità questa la storia non solo l'ho parata sui 40 euro, ma quella lì non è a radiali. No, non ha radiali, non ha niente, c'è solo una molla attorno, c'è una specie di molla elicolare, quella va montata come si regola le stazioni, c'è il coso di istruzioni che dice come regola le stazionarie. Ma è facilissima da montare, guarda, in 5 minuti la monti subito perché quando te la danno è a pezzi, ma innessa uno con l'altro, c'è lo stilo centrale che innessa con la fitte, e poi c'è questa molla che va fissata con due bulloncini, una da parte uno dall'altro, e c'è questa fase civile che regola le stazionarie. Regola le stazionarie e sta andando. Ed è un'antenna che muove, c'è 6 dB e spara abbastanza bene. Capo positivo, meglio di questo affidò, adesso provo a vedere, vai. Niente, se è così, perché se c'aveva radiali io c'ho un terrazzino stretto, dunque non andava bene. Ma così l'altezza non mi interessa, guarda. La posso mettere come pugno per la fine. E niente. Se non hai problemi di altezza che ti tocca da nessuna parte, l'ideale, perché è leggera e non ha appunto radiali, non ha niente che impedisce. Lei è un'antenna leggera, c'ha 6 dB di guadagno in ascolto pure, perché e poi c'ha 3000 watt, puoi mettere, se c'è 3000 watt puoi mettere 3000 watt, pensa un po'. E da quanto è una mantova, so che è leggera, in alluminio leggero, e non ha molta manutenzione, ecco. È una via di mezzo, diciamo. Comunque è un'antenna che ha le sue capacità. E mentre invece quella che stavo usando adesso non c'ha neanche un dB di guadagno. Quindi c'è molto di più, è pure alta 5,50 m. Sì, sì, ma è sicuramente migliore di questa per forza. E niente, adesso mi informo, vedo un po', vado a vedere. Niente, volevo dire, io ho una stufetta da, si chiama, allora, è della CE, c'è questo CTE 737, lo conosci questo qua? 737? Positivo. Infatti, lo conosco, sì. Ascolta, se io quello lo spengo, qua mi segna sullo smitter 2 watt. Da quanto è questo qua? Non lo sai tu, perché io non ho né fuori strutture, non ho nulla qua. Sullo smitter non ti segnano. Come no, Giuseppe mi ha detto che in questo qua mi segna i watt. Uno mi ha detto che uno è il segnale e l'altro è i watt, come esco io? No, lo smitter non mi segnano watt. Per segnare, per misurare il watt che c'ha l'apparecchio compreso la scarpetta, ci vuole un rosmetro, un wattometro. C'ho anche quello, il rosmetro ce l'ho, ma allora io ti dico una cosa, qui nello smitter ho segnato segnale e power. Quel power a me mi ha detto che erano i watt. E niente, da quanto sarà quel 737? Un attimo che sono distratto, un attimo, cosa ho detto? sai quanto, da quanto è quel 737? Quelli erano una cinquantina di watt, 40 watt, non di più. Ah, ok, dunque io a quanto dovrei uscire più o meno di watt adesso? Non so, secondo di quanto gli dai di ingresso, come darti il carico pieno, una cinquantina di watt, 40 watt, così, non lo so. Sì, capito, va bene, dai. Niente, ma c'è altra gente sotto, perché io lo sento solo a te? No, non c'è altro nessuno, non c'è altro nessuno. E io sono arrivato anche a casa e quindi ti saluto. Perché devo scendere la macchina, un po' di sonno pure. Ho arrecato con un po' di stanchezza al lavoro di oggi. Ti saluto, ci ascoltiamo le prossime. Mi ha fatto piacere cambiare le chiacchiere, se vuoi altri suggerimenti. Ok, Radio Vela, mi ha fatto piacere anche a me, guarda, ci sentiamo le prossimine, grazie a tutti i consigli, vedrò di sistemare qualche cosa perché sono già alcuni mesi così. Dai, alle prossime, dai, ciao Pierpaolo, ciao.